se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Buongiorno a tutti, sono Nicky Vendola. Anch'io la mattina mentre do la pappa a Tobia spesso ascolto Alessandro Milan. E ciccoso proprio. Sing me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fight, and I'm an easy brother, and I'm on fire. Nelle scorse settimane oggettivamente qualcuno ha cercato di distruggere il PD. E lo ha fatto perché c'era una debolezza oggettiva della leadership, innanzitutto mia. Qualcuno ha pensato, sai che c'è, quasi ne approfitto. Si mettano il cuore in pace, è una storia che c'era da prima di noi, che cammina con noi e che ci sarà dopo di noi. È la vostra storia, è la vostra forza. Di poter definirsi di sinistra perché sale su un palco, alza il pugno chiuso e canta bandiera rossa. Non è questo il modo di aiutare i cittadini. È un'immagine da macchietta, non da politica. Rinunciate all'immunità e prendetevi le nostre querele e vediamo in tribunale chi avrà ragione e chi no. Caro Luigi Di Maio e caro Alessandro Di Battista, venite in tribunale e vediamo chi avrà ragione e chi torto. Vi aspettiamo con affetto e con gli avvocati. Urca, quando ha detto Alessandro l'associato alle querele, per un attimo ho temuto, È tornato il Renzi d'assalto, avete sentito a dire temevate, qualcuno si voleva insinuare su una leadership un po' debole anche la mia, eh? Sono finiti quei tempi. Bombe atomiche. È tornato Renzi, caro Vincenzino De Luca. E qui la conduzione di 24 Mattino 4.0 si fa aggressiva, Come mi sono divertito. Lì al Lingotto. Signori, voglio ringraziare anche Nicky Vendola che ci segue ogni tanto. No, ragazzi. È il grande Barti di RDS a cui mando un abbraccio. Barti Colucci, un grandissimo. E ci ha fatto dei regali, Dei regalicci. Cos'è che dice De Luca? Rock 2. Signori! A Milano ci sono 8 gradi questa mattina, si apre la 202esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, mentre a Maddaloni ci sono 5 gradi, mi urla Forza Juve, caro Tony, Forza Juve, bravi. Dopo devo dire solo una cosa della Juve, a poco la dico a un mio amico qua in onda. Saluto a Reggio Calabria, 9 gradi, Forza Milan, grande fratello, viva. Ci sono 4 gradi a Varese. Andrea ci sta ascoltando da Shenzhen, Cina, ci sono 25 gradi. Mentre a Velletri 7 gradi e mezzo e luna piena. Un bacio ad Alessio. A Torino 5 gradi, grande Guglielmo, un saluto. A San Pellegrino Terme 5 gradi, Marco il ciclista. Ti immagino adesso così tutto bardato già con i pantaloncini a sfidare la brina. Sono perso il pizzaiolo, porcaccia miseria, che mi ha salutato e lo volevo salutare. Eccolo qua, Monte Marcone, 0 gradi, Giovanni, pizzaiolo, ti ascolto da anni. Grande Giovanni. Va bene, ma voglio salutare subito, quel disgraziato gobbo juventino. Ed è il gol della Juventus. Marione Dinolfi, buongiorno Marione. Grande vittoria ai supplementari della Juve, grande vittoria, bravi, bravi. Io voglio capire di cosa stiamo discutendo. Siete i più forti, siete i più bravi, siete i migliori, viva lo sport. Assolutamente. Ti assicuro. Che in questo momento a Denpasar, Bali, ci sono 30 gradi e Beppe ce lo fa sapere in onda. Denpasar, Bali. E tutto è che a Bali riparano gli spacciatori, vero? C'è un mercato florido della droga. Finiscila, finiscila. Come uno che emigra e va a Bali, dai. Finiscila. Ti informo anche che in questo momento ci arriva, porcaccia miseria l'ho persa, ma era bellissima questa, da Riyadh, ci stanno ascoltando da Riyadh, lì stai attento. Eccolo. Il direttore della croce lì può essere un po' in difficoltà. Sì, esatto. Ci decapitano direttamente. A Riyadh, ridillo croce, che magari sono, è intercettato questo, ridillo bene croce. C'è la decapitazione, insomma, prevista. Però. Esatto. Allora, signori, siamo con Mariona Dinolfi e con l'avvocato quasi omonimo Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno Rienzi. Buongiorno a tutti. Io voglio dire solo una cosa allo juventino Mario Dinolfi, solo una cosa, una ne dico una. Come ho scritto su Twitter, che si lamentano, avete fatto quattro casini e rotture di scatole perché abbiamo strappato 4-5 scudetti dallo spogliatoio della Juve e abbiamo scritto ladri, no? Abbiamo strappato 4-5 scudetti, ho detto ricomprateveli e un attimo, quanto verranno? 50 euro 4-5 scudetti da attaccare lì? Ricomprateli e niente storie, insomma, non fate questi casini, no? L'hai scritta su Twitter, insomma, con grande arguzia. È stata molto ritwittata. Sono stato molto la faccia da Twitter in quel momento. Sì, questa cosa che ho scritto. Più o meno così. Guarda, 350 retweet. Mamma mia, siamo già a 400 retweet. Bravo così. Detto a noi e cazzate a voi. Perfetto. Bravo. Mattia, guarda, Mattia, 400 retweet. Guarda che bello. Sì. Godiamoli vale. Queste cose. Ci sono estremi per una querela per questa mia frase, Rienzi? No. No, tranquillo. Anche perché tweet a me proprio. No, non denuncio i tweet perché non manco li leggo. Ok, vabbè. Non mi interessa. Non li legge. Allora, no, dai, non apriamo. Mi piace questa comunicazione via tweet. Che cavolo, ma è finito tutto. Insomma, una volta si facevano i comunicati stampa, si facevano le conferenze stampa. Adesso tutto Twitter, Facebook. Dai, apriamo il Parlamento. Mamma mia, 430 ragazzi, se uno esce, mi prende un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Dia da Dinolfi di venire qui a farsi un giro, Simone, da Riyadh. Riscrive da Riyadh. Ma perché? Fa che il cammelliere nel deserto? Che devo andare a fare Riyadh? Eccolo qua. Lui che fa Riyadh? Chiedi un attimo. No, aspetta, questo non è da Riyadh, è 00971. Sì, 23 gradi a Riyadh. Ma guarda, fantastico, sono due. È 00966 da due a Riyadh. Ah, ho capito. Due da Riyadh, è fantastico. Non è bello sapere che ci stanno ascoltando a Riyadh in questo momento, dei grandi ascoltatori. Vi mandiamo dei grossi abbracci. Allora. Per loro interessa il problema dello stadio Flaminio o il problema dello stadio dei sovrappassi che non sono stati controllati, nonostante noi nel 2013 avevamo chiesto al ministro di controllarli uno per uno? No. Chissà se interessa a quelli che stanno a Riyadh. Non lo so, a Riyadh, ma... O hanno nostalgia della bandiera rossa strappata da Renzi. La bandiera rossa. Come noi. No. Sì, sono cose fondamentali. Ecco, infatti vorrei capire, caro Marione, poi voglio parlare anche di quello che è successo a Napoli, voglio parlare anche di legittima difesa, dai, diciamo. Ti parlerò anche di Cristiano Ronaldo oggi. Ma quante cose oggi, che meno ricco sto. Dimmi un po' qual è il cuore di quello che ha fatto Renzi al Lingotto. Guarda, Renzi ha provato a rinsaldare la leadership in maniera molto netta e con un discorso abile, ma il problema della debolezza della leadership è strutturale, non è che lo risolvi con il discorso, diciamo così. Ha detto, il PD sono io, fondamentalmente, sto famoso è finito lì, io mettiamo il noi, tutte minchiate. Ha detto, ci sono io al centro di questa Sì, l'ha ribadito. nella partita complessiva credo che la debolezza sia intrinseca, cioè la debolezza è politica. Il progetto è uno solo, lui dice io sono quello lì del 40% di sì. Adesso bisognerà misurarlo su quanto consenso in realtà avrà e quanto all'interno del partito gli vorranno far fare ancora lo uomo. Ma l'ha detto chiaro, l'ha detto chiaro, cioè pensavate qualcuno si voleva insinuare nella debolezza della leadership, sono finiti quei tempi, è tornato Renzi. Stiamo che succede? Sta sbagliando di nuovo. Ritorna a dire ha sbagliato io. Per il referendum, perché sta escludendo definitivamente quel mondo che ricorda Bandiera Rossa in modo corretto e giusto per una storia che ha costituito e lo allontana sempre di più. Quelli hanno fatto la scissione. Più debole. Hanno fatto la scissione. E questo quelli... è il punto. Ho capito, ha fatto la scissione, ma invece di tentare di mettere insieme di nuovo tutti quelli che sono un po' antagonisti a una politica che è la sua politica più di destra, praticamente vuole isolarsi nella sua politica di destra e questo secondo me indebolirà sempre più il Partito Democratico ed è una cosa negativa perché alla fine non c'è più nessuna opposizione. Ma lui ai 5 Stelle avremo un'altra situazione in cui avremo i 5 Stelle che domineranno senza opposizione né a destra né al centro, diciamo così, o comunque al centro-sinistra di Renzi. Sì, quindi vabbè, ma lui è abituato a questo, il one man show, non è che... Peggio per noi. Vabbè, non so. Sarà meglio per lui, non lo so, Marione, non lo so. Come... da questo, Renzi è questo, Renzi appunto. È questa cosa qui, ed è la dichiarata di nuovo, ripeto, il problema è negli equilibri interni al partito, mentre prima dominava e, diciamo così, le correnti interne si erano acquietate sotto la sua leadership in maniera persino servile. Oggi credo che sarà più complicato per lui fare un lavoro del genere in un sistema che non è il sistema renziano costruito, pensato con la riforma costituzionale, l'Italicum. Lì c'era un progetto estremamente organico e disegnato su misura di Renzi. Ora Renzi deve scontrarsi con l'enorme novità che si chiama sistema politico proporzionale, che è tutto un altro tipo di partita. Lui sta riproponendo lo schema da maggioritario con l'uomo forte al comando in un contesto che invece è un sistema proporzionale. Nel sistema proporzionale il potere va ai gentiloni, cioè alle figure diciamo mediative rispetto alle realtà diverse che sono presenti in Parlamento, non al diciamo prorompente leader quarantenne, diciamo così. Insomma, quindi questa cosa secondo me non l'ha valutata. Renzi è, ve lo faccio dire dal Del Rio chi è. Renzi è come, sentite qua Del Rio. Perché ognuno di voi oggi, tornando a casa, potrà dire non di essere stato convocato da Matteo Renzi, ma di avere convocato Matteo Renzi. Il nostro noi non ha paura della leadership, sa che la leadership è indispensabile. Quando giocava al Napoli, nessuno aveva paura di mettere in campo Maradona. I napoletani non avevano paura che Maradona giocasse troppo con la palla. Giocavano tutti insieme, è chiaro, la squadra vinceva. Ma senza Maradona non si vinceva lo scudetto. Signori! Carlo Maradona Renzi faceva gol, ma che cavolo di cosa? Maradona! Renzi è Maradona! No, addirittura gli autogol. È Maradona per Del Rio. Per cui non va cosa. Ma che Maradona è Maradona? Allora, se lui non è Maradona, non ha niente a che vedere con un personaggio che realizza poi segnando la vittoria della sua squadra. Perché fino adesso, purtroppo, dopo aver fatto alcune leggi inconsistenti, ha portato al crollo della sua squadra. Adesso ha cambiato squadra, ma la squadra è una squadra di Serie B. Perché alle prossime elezioni sarà nella Serie B. Poi come la Juve. Hai capito? Magari Marione Di Nolfi. Va bene, dai, vi voglio... Cos'è successo a Napoli? Non ho capito, cos'è successo a Napoli? È successo che Salvini va lì e non può parlare. Scontri, trick e track, bombe. No, perché per la verità c'è la moglie di De Magistris. Attenzione, non ho sbagliato. La moglie di De Magistris, che rilascia un'intervista alla stampa, dice: io, come tanti, eravamo in corteo contro Salvini. È stato un corteo pacifico, tranquillo. Poi si sono infiltrati quei disgraziati di Black Bloc. Black Bloc. Tu metti Black Bloc su tutto e alle. Allora, il degrado dei nostri sindaci si vede dalla Raggi che scende in piazza con i tassisti, sì, a dire bloccate la città. Magari ci fosse stato Rienzi, e De Magistris che scende in piazza a dire: tu non parli, diamo spazio anche ai violenti, sì, involontariamente, sì, naturalmente, non è che l'ha fatta apposta. Ma tra l'altro non so se vi rendete conto, cari ascoltatori, qui abbiamo con Carlo Rienzi, presidente del Colacos, e Mariola Di Rolfi, direttore della Croce, due che si sono buttati nel lagone politico, si sono sfidati nella campagna elettorale per diventare sindaco di Roma e non ce l'hanno fatta entrambi, mannaggia. Ma meno male. Meno male. Rienzi dice... Poi se la faceva di notte eravamo proprio in anni. Vabbè. Ho vinto io comunque. Avremmo dovuto andare con la Croce, esatto, al collo. Esatto, Adinolfi ha preso più voti di Rienzi. Il triplo l'ho preso. Il triplo? Sì, 0-0-0-2 abbiamo fatto. Guarda, proprio l'arroganza juventina. Cioè, proprio... Sì, anche perché in tutto, il tipo in di tutto. Manifesti abusivi, capito? ecco. Allora, ovviamente aveva i soldi per farlo. Marione, che è successo a Napoli? È giusto manifestare se Salvini va a Napoli? Allora, le cose sono molto semplici. Tu fai un ragionamento sull'uguale e contrario. Metti che quando c'è la cosa che sentivo Vendola, ci sente, quando Vendola va, sì, a parlare, grande Vendola, sentito, a Milano c'è un bel evento in cui prima gli occupano la sala dove deve parlare dicendo che non deve presentarsi lì, poi gli fanno la guerriglia urbana e pensa come verrebbe raccontata se ci fosse un dubbio, diciamo così, e accadesse una cosa del genere, come verrebbe raccontata dai giornali. Cioè, perché Adinolfi queste cose le ha subite, Adinolfi, dove va ogni tanto. Sempre scortato minimo da due gazzelle o da certe volte sette blindati ho avuto per andare a fare un comizio, insomma, quindi non io trovo incredibile che si possa discutere, sia un elemento di dibattito, è una cosa vergognosa, fascista. De Magistris da questo punto di vista si è dimostrato davvero una persona, al di là della dimensione politica, la dialettica politica è nota, è dura, è cattiva, sì, molto, sì, spesso, ma questo sul piano istituzionale è intollerabile. C'era pure Peppino Di Capri ad ascoltare Salvini, ragazzi, non so se vi rendete conto, Peppino Di Capri era ad ascoltare Salvini e dice oggi al Messaggero: l'ho fatto per cortesia. Se c'era pure Peppino Di Capri, che problema c'è se Salvini parla a Napoli o no? Rienzi, no. Rienzi, che dire le cavolate che vuole, come le dice Adinolfi quando va con le gazzelle della polizia, ecco. Cioè, è chiaro che il problema non è quello, il problema è che un sindaco che interpreta il proprio ruolo e solo perché ha la proprietà della mostra d'oltremare, sì. Deve dire: vai nella piazza a fianco, ti difendo io il tuo diritto, lì non ci puoi andare per un motivo di ordine pubblico particolare, eccetera, eccetera. Ma che amministrazione è? Cioè, l'amministrazione è diventata ricostituire e rinsaldare il proprio potere politico, il proprio poltrone per il domani. Cioè, io, siccome ho i voti nei centri sociali, faccio questo. La Raggi ha i voti con i tassisti e fa quello che ha fatto, sì. Ma questa è amministrazione, quella è la classica gestione del voto giorno per giorno. Comunque dobbiamo andare al traffico. Allora, bocciato De Magistris e viva Salvini per i nostri ascoltatori, cioè viva la libertà di parola di Salvini, no, viva Salvini. Non so, Marione, vuoi dire viva Salvini? No, non lo voglio io assolutamente, no. Però viva la libertà di parola. No, guarda, la cosa interessante non è la libertà di parola di Salvini, è che ci sia stato un dibattito sui giornali, adesso lo stiamo facendo, su una cosa che non dovrebbe essere in alcun modo dibattuta, chiaro. La libertà di parola di una persona politica non può essere messa in discussione, punto, sì, fine della discussione. Sì. Punto, traffico. Ciao Milan, fammi sentire il traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Rivoluzione mite, ma chi se ne frega? Pallotta, a Roma, anziché rifare lo stadio della Roma, rifai Tor di Valle, che è meglio vedere i cavalli che corrono che i somari. Oh, Alessa, ma qual la farnesca sti cazzo da gret? Ho pensato a Forza Italia come a una pianta e l'ho chiamato l'albero della libertà. Mi sarebbe piaciuto chiamarlo quercia, più forte, ma l'avevano già usata loro. Ma cosa c'è da ridere? Ma che è? Che è? Non so, Renzi faceva ridere questa uscita di Berlusconi? È abbastanza. No, mi è piaciuto senso... quello che ha detto dello stadio della Roma, veramente quella scortatore. È piaciuto le querce e cavalli, sì. Avete visto adesso lo stadio Flaminio, il CONI che l'ha distrutto per anni, no? L'ha tenuto in mano e l'ha fatto andare in degrado. Adesso dice che lui avrà il progetto per restaurarlo con i soldi degli sponsor invece di pagare i danni. Niente, è fissato con lo stadio. Lo stadio l'ho fissato con lo stadio Flaminio, lo stadio della Roma. È stato perché Roma è in una situazione disastrata. Ma di nuovo, finché facciamo lo stadio della Roma, tu lo vorresti abbattere, cioè manco c'è, tu lo abbatti. Così abbattere lo stadio Olimpico, se giocherà sempre allo stadio Olimpico a Roma, è bellissimo. Anche lì una cosa infinita, insomma, cioè, se giocherà sempre all'Olimpico, non... Pallotta è venuto a fare solo questo affare qui. Questo è noto, c'era cioè, l'idea di vendersi la Roma è solo legata a questo affare. L'affare l'americano non ha capito e non glielo fanno fare, perché questo è l'esito reale di questo dialettica. E fra un po' si disimpegnerà, anche perché nel frattempo la Roma non sta facendo sfracelli, insomma, questa cosa verrà pagata, insomma, così giallorossi ancora una volta sono illusi, diciamo così, dell'ennesimo americano a Roma. Vabbè. Allora, signori, voglio chiedere soprattutto a Maria Dinolfi, ma anche all'avvocato Rienzi, che su questi temi è uno molto laico, molto di qui, che ne pensate di Cristiano Ronaldo, caro Mariona Dinolfi? Cristiano Ronaldo ha detto com'è che ha combinato? Ha detto che ma non fare finta di non sapere. Non la so. Ha detto che farà altri due gemelli con la maternità surrogata. Vuole due gemellini adesso. C'ha già un figlio e vuole due gemellini, due gemelli piccolini, tutti uguali. Io gemellini. Penso che come al solito chi ragiona sulla maternità surrogata come strumento, diciamo così, per soddisfare un proprio desiderio, commette un atto barbaro e criminale di sfruttamento di una donna. Barbaro e costretta a vendere i figli che partorisce. Io penso che questa cosa sia la cosa più orrenda che si possa immaginare al mondo. E poi ancora qui è diventa accettabile o addirittura c'è l'encomio, ormai ci sono le sentenze della magistratura, dice viva il modo in cui si priva un bambino del diritto ad avere sua madre. E questa è una cosa folle. Allora ormai il tempo è impazzito, diciamo, vabbè, va bene tutto, tanto i soldi. C'è un motivo in più per non ti fare al Madrid per te, un motivo in più, cioè hanno quando se la c'è croce dallo scudetto per farlo. Cioè se c'è il Real Madrid Juventus, tu vai lì proprio a dirgli barbaro, criminale, tu e la maternità surrogata, vergogna. Il problema è dei nuovi diritti. È vergognoso, cioè io penso veramente è qualcosa da mettere al bando termini di crimine internazionale. Se è legittimo andare a strappare i figli per la forza del proprio denaro la donna che li partorisce, vuol dire che ormai possiamo fare veramente di tutto col denaro. Questo Rienzi, che mi, Rienzi che mi dice? Che è un parere da non chiedere né a Dinolfi, che c'è i paraocchi, purtroppo sappiamo, insomma, né a me per ragioni di età, perché il problema è dei nuovi diritti, no? Noi che abbiamo studiato la giurisprudenza come avvocati. I nuovi diritti a noi ci sembrano tutti strani, il diritto a morire per esempio, il diritto ad anticipare il momento della morte che abbiamo in questo periodo, se ne parla eccetera, il diritto ad avere per forza un figlio, cioè diventano diritti, cioè quelli che erano eventi naturali vengono trasformati dalla giurisprudenza e da una certa mentalità moderna, tra virgolette, chiamiamola moderna, in diritti, cioè io ho diritto diritto di fare il figlio con un maschio, fare il figlio e con perché un dice altro, cioè, però... gente della tua età non lo capisce perché sono cose non lo capisce perché noi abbiamo una cultura diversa, una cultura in cui tutto questo era naturalità, cioè fare un figlio era un fatto naturale e morire però non lo capisce neanche naturale. Adinolfi, non per una questione di età in questo caso, ma per questione di paraocchi. Capito, c'hai i paraocchi Adinolfi, ti devi un attimo aprire a forma di croce. Vabbè, adesso a forma di croce, non ironizziamo. No, cioè, però, Marione, questa è l'accusa che ti fanno tanti, cioè di essere così un po' retrogrado. Su questo è essere avanzati. Io continuo non a essere retrogrado, a essere medievale, piccolo, come volete. Il dato di fatto è che questi non sono nuovi diritti, sono cazzate. Vergognose cazzate. Questo no, con cui questo... si prova a dire che esista un termine di diritto in termini giurisprudenziali dove invece c'è violenza, barbarie ai danni dei più deboli che sono perché ci sono le mutazioni nella società, la società cambia e quando cambia la società cambia anche la legge e il diritto, la legge più forte è una legge di merda, questo è un dato di fatto. Su questo Adinolfi dice non cambia, non può cambiare niente, è una cazzata, non può cambiare mai, però ho capito, ma non è che non può cambiare mai, non è che le cose per te non può cambiare, perché la legge tutela il più debole, non può tutelare la forza del denaro, la forza del potente, la prepotenza, non è una cosa, la legge non nasce per questo, non può essere immaginata. Ma ha detto che io su questo, lo so che poi la gente mi attacca, sulla maternità surrogata anch'io la penso come Mario, cioè non sono contrario come pratica, non mi piace, non so, così non mi piace l'idea, ma questo è il gusto, una questione non è carina la mia non mi piace l'idea che si possa fare. Non è proprio di gusto, è proprio ignobile, inciviltà. Vabbè, ho capito, su questo. Ma ti impattiamo veramente se possa comprare il corpo di una donna. Aurienzi, gli dai un mignolo di ragione e si prende tre scudetti come la Juve. Sarà anche contrario al trapianto e all'aborto, no? Lui è contrario anche all'aborto, certo. Su quello non sono d'accordo come Mario. Comunque gli dai un'unghia e si prendono tre scudetti come la Juve. E proprio siete così, Marione. È un'unghia di ragione. Vabbè, dai, Marione. Ma hai esultato al 96esimo? Ma hai capito perché è durata fino al 97esimo con 4 minuti di recupero? Almeno al 94esimo e 30 avete fatto una stop da volley in area di rigore dopo aver fatto un gol in fuorigioco palese. In una dimensione in cui il rigore c'era stato già segato e avevamo fatto 25 tiri a 1. E beh, 25 tiri a 1, ma ci sta anche un portiere. Ci sta anche un portiere. 94esimo e 30, una murata da volley. Sì. Che volete fare? Ma vogliamo dire? Ancora una volta. Proprio amichevolmente. Nulla. Amichevolmente, va. Allora, dai, ciao Mariano Adinolfi e Carlo Rienzi. Ma smettila, tira giù. Ciao. Juventus, vergogna. Non si può dare questo rigore a tempo scaduto. Non si può dare questo rigore a tempo scaduto. Ma poi ha preso anche il petto! Non c'è proprio sto rigore! È una vergogna sto rigore! Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, sono le 7 e 20 minuti in punto nel giorno in cui inizia la 202esima, 202esima, fate voi, settimana decisiva per l'abolizione delle province, nonché la 13esima per la riforma elettorale. Decisive, ovviamente, come settimane. Staremo a vedere, dai, questo è lo spazio con Peter Bescapè, regia, e Lorenzo Nespoli in redazione, che non ho citato prima, della rassegna stampa, la spazio dedicato alla lettura dei giornali. Andiamo. Buongiorno a tutti, sono Nicky Vendola. Anch'io la mattina, mentre do la pappa a Tobia, spesso ascolto Alessandro Milan. E ciccoso proprio. Va bene, va bene.